Allora. Cos'è la scala? Na na na ni ma ma ma ma. Da scaldarsi, no? Questo è quanto. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Oggi sono stremato. Addirittura, cosa stremato? Hai fatto? No, niente. Era nemmeno festa ieri. No, ma niente di che, sono stremato. Beh, sai cosa potrebbe essere? Fibromialgia. Prova a fare le analisi. Fibromialgia è una specie di malattia che non so se esiste davvero o no. Ecco. Però molti ne soffrono senza saperlo, e forse meglio. Sono sempre stanchi, non sanno perché, arrivano alla fine della giornata pieni di dolori, così. Tutto il mondo è così. Ecco, infatti, hanno tutti la fibromialgia, forse. L'unica cosa che c'è da dire alla Ida è che non abbiamo niente di speciale stasera, perché siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie... Dai. Sì. E io sono stremato, capito? Vedi, anche il bambino Silvio è stremato, sì, ma non per la fibromialgia. No, lui è stremato per gli incontri B e tri laterali. Come B e tri B laterali? Tri. Dipende, no? Laterali. Possono essere anche quadrilaterali. Ma, come? Ma sì, dipende da quante delegazioni riesce a ricevere. Vabbè, è vero, sì. Anche Silvio, anche lui ha dei limiti biologici. Cioè, non si possono incontrare quattro delegazioni tutte insieme e uscirne vivo, specie a quanti ne ha? 75 anni. Sì, infatti, fosse una delegazione alla volta, magari. Raffaella c'era? No. No. La Ida sì, poi? Ida? Una nuova lì, di Montenegro, di Montenegro. Allora, Nicolina, ah, beh, sì. Mora. Mora, sì, Nicolina. Sì, sì. La Lisa poi, c'era? Lisa, sì. Dagli occhi blu. Poi? Anna. Di Roma, Iolinda. Ma scusa, Linda, ma sono tutte delegazioni. Iolinda. Giada. Ah, sono un sacco di delegazioni. Sì, davvero tanti. Ma Ida è rimasta lì a dormire? Vedi, no, no. Anche di notte lavora, capito? Vabbè. Io ho perso il conto. Erano niente. Aspetta. È un po' strano, non ha sentito la Fagioli, non l'ha chiamata. Ha stremato. No? E te come fai a saperlo? Perché la Fagioli chiamava sempre la Aris. Ah, vedi, Aris. Ah, sì, sono e lei gliel'ha detto ormai. Lei gliel'ha detto. Sì. Un casino, cioè vuol dire stremato anche solo ad ascoltare l'elenco delle persone qua, capito? Aspetta. Qua. Contando. Quanti cuori ci sono? È a conta lì. Tre. Benissimo. Ci sono tre cuori. Quanti rettangoli ci sono? Quattro. Benissimo! Ci sono quattro cuori rettangoli. Quanti rettangoli ci sono? No. Quattro. Oh oh, prova ancora. Quanti quangoli ci sono? Tre. Oh oh, prova ancora. Quanti oh oh ci sono? Uno, due, tre, quattro e cinque. Questa è la risposta esatta. Ci sono cinque. Oh oh. Oh no, ma Tito è ancora sconvolto dall'aggressione di un mese fa. Alterna fasi floppa floppa a fasi geure geure. Vabbè, però spiegati meglio, sennò ti prendono per pazzo. No, ma è facilissimo, dai. Floppa floppa è quando è amico e mi lecca. Giusto. Floppa floppa. Floppa floppa. Geure geure invece quando è nemico o comunque insomma un po' ostile, e mi ringhia. Infatti, ma questo lo sapevamo, il geure geure insomma è universalmente conosciuto. Flop a flop è una new entry, diciamo. Ma hai provato a sentire uno psicologo? Sì, lo senti il mio, però non è migliorata la situazione. Il psicologo si occupa di te, mica di Tito. Cosa vuol dire? Un miglioramento mio porta a un miglioramento generale, no? Pensavo così, invece lui continua ad alternare flop a flop, geure geure, geure geure, flop a flop. Un po' come Sinéad O'Connor, capito? Perché? Anche lei floppa floppa geure geure. Sì, sì, ha interrotto addirittura la tournée europea, doveva venire anche a Milano, ha detto no, non posso perché il dottore mi ha proibito in quanto ho il disturbo bipolare, che è il disturbo detto anche... Disturbo floppa floppa geure geure! E però Tito a volte è confuso, capito? E mischia un po' i due atteggiamenti. Vabbè, l'atteggiamento floppa flop e l'atteggiamento gara gara insieme, come fa a farlo? Così, io torno a casa, lui è tutto contento, però mi fa gevre gevre e intanto mi lecca, hai capito? Fa un floppa flop, poi si blocca, si trasforma di nuovo in gevre gevre. È come la famosa canzone, no? La famosa canzone. Quale, di Sinéad O'Connor. Non so se Sinéad O'Connor l'ha mai fatta, la cover di quella. Ma no, la canzone è quella di Celentano, un floppa floppa in un gevre gevre. La conosci, no? Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre, this is the dog singing, stai già pensando a un altro cane. Mi sento già sperduto e la mia zampa, dove tu prima brillavi, è diventata un geure geure, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno. E dal geure geure un floppa floppa nascerà, vada vada. Vai, vai, vai, non è la minore, va, va, vai, è un sol settima, va, va, va, va, vai, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, è un geure, geure, floppa, floppa. Steven Spielberg presents Bird, Bird. Bird, Bird. Directed by Steven Spielberg. Pop goes the weasel. Pop, pop, pop goes the weasel. Pop, pop, pop goes the weasel. Pop goes the weasel. Pieno asilo. Sadica o soltanto severa? Ma chi se ne frega? Ecco, sì, sto parlando però di una maestra di Torino al centro di alcune polemiche questa settimana, però senza scendere nei dettagli di questo caso particolare, si riesce a dividere nettamente gli ambiti, cioè quando uno è sadico o quando è solo severo, specie se ha un ruolo come tipo come si fa insegnante a capire quando una maestra smette di essere severa e comincia a diventare proprio stronza? Ecco, vediamo di stilare una lista di comportamenti che possono indurci a pensare che la maestra sia una stronza. Allora, numero 1, fa finta di commuoversi prima di Allora, 1, fa finta di commuoversi prima di distribuire punizioni a tutti. Cioè vuole un po' anche far pena, oltre a essere cattiva, vuole anche, come dire, commuovere. Ma devi spiegare, era difficile da capire. Sì. Fa finta di commuoversi prima di distribuire punizioni a tutti, è abbastanza semplice da capire. Va forse bene, fare allora la parafrasi non serve. 1. Fa finta di commuoversi prima di distribuire punizioni a tutti. 2. Si comporta bene con i bambini più dotati e si diverte a massacrare quelli che rimangono indietro come Drago. 3. Per ogni lamentela diretta verso di lei dà la colpa al preside. Vabbè, però hai fatto l'identikit della Fornero alla fine. Ma Tito, cosa vuoi? Ma quale Fornero? Sì, le lacrime, l'accanimento contro i poveracci, la scusa che c'è Monti che vuole così. Dai, è evidente. Guarda, no? Ti giuro, se ho parlato della Fornero l'ho fatto a mia insaputa. Cosa c'è da ridere, scusa? Ho detto mia insaputa. Ah già, allora rido anch'io. È finita la puntata del giovedì. Quindi domani ci sarà la puntata del venerdì. Sì, però non dirlo così, perché insomma... Si spera male. Meglio non dirlo. Potrebbe... Vabbè. Allora, magari, forse domani ci sentiamo, forse. Perché? Dici di non dirlo troppo. No, ma io...